Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Margherita Jurcenar, belga di Bruxelles, aristocratica e cosmopolita, la prima e sola donna accademico di Francia. Perde la madre appena nata, viaggia molto col padre e poi da sola. Dal 39 si trasferisce negli Stati Uniti, vive nel Maine in una casa tutta di legno, in cui l'unica cosa tecnologica è una vecchia radio sempre spenta. Insegna letteratura e scrive. Il primo romanzo del 29, ma il successo è arrivato nel 51 con Memorie di Adriano, giunto da noi solo nel 63. Una biografia storica dell'imperatore preceduta da 30 anni di ricerche sui testi. Del resto a 10 anni le hanno insegnato il latino e a 12 il greco alla perfezione. Premio Femina nel 68, accademico di Francia dall'81. Della sua opera hanno detto che è il complesso romanzesco più grande del Novecento, un prodigioso affresco di fantasia e storie di tempo che scorre e che in realtà non cambia mai. Un'anziana nobildonna raffinata che ha vissuto per decenni da contadina. È stata operata al cuore e ha voluto guardare tutto da vicino con l'attenzione lucida di chissà dove sta andando. Insomma, un immortale che ha scelto di morire ad occhi aperti. Madame Jurcenar, davvero se ne infischia di essere dopo 350 anni la prima donna che entra nell'Académie Française? Bisogna pure che ci sia una donna. Non è importante per lei? Non mi importa. Ecco, perché non importa? Perché nel mondo c'è altro da fare e a cui pensare. Senta, ma c'è andata qualche volta alle riunioni? Mai andata? Mai. E perché non è mai andata? Perché non mi sembrava importante, né per i signori né per me. Senta, i cattivi, i maligni, dicono che hanno preferito lei a Simone de Beauvoir, che era troppo rompiscatole, e a Nathalie Serrault, che era troppo femminista. Lei cosa ne pensa? Non so, non ho letto molto né di Simone de Beauvoir né di Nathalie Sarraute. Non ne ho avuto il tempo. Madame Jurcenar, lei una volta ha detto che scrivere è come fare il pane. La mano deve sentire quando la pasta è pronta. È vero. Ecco, di solito, dopo quante stesure la sua mano sente che un romanzo è pronto? Non si sa, dipende. Ogni volta è un caso diverso. Ogni volta è diverso. Quindi non c'è una regola. No, nessuna regola. Niente regola. Nessuna regola. Ecco, i suoi libri comunque spesso hanno una gestazione di decine di anni. Decine di anni, mesi. Possono essere anche 30 anni, non si sa, dipende. Senta, ma è vero che il primo abbozzo del suo romanzo più famoso, Le Memorie di Adriano, lo ha ritrovato dopo molti anni in un baule? È vero? Ho pensato di scrivere qualche cosa della vita e della storia di Adriano durante la mia prima visita alla villa di Adriano quando avevo 20 anni. Ma non sapevo abbastanza di quel periodo storico, dei tempi e dei problemi di cui poi ho scritto. E quindi l'ho messo da parte. Ma poi l'ha ritrovato per caso oppure ha continuato ad avere un rapporto? Da tempo. Ogni tanto tornavo a lavorarci. Madame Jurcenar, ma durante tutti quegli anni, dal momento in cui ha preso i primi appunti a quando ha deciso di scrivere il libro, No. Ecco, lei aveva dimenticato? Dimenticato più o meno. Oppure il subconscio continuava a riflettere? Sicuro. Tutto dimora dentro di noi. C'è il caso, c'è la fortuna che fa sì che possiamo prendere un concetto piuttosto che un altro. Ma secondo lei le era rimasto questa cosa di Adriano? Ma tutto rimane dentro di noi. È stato un caso il fatto di recuperare questa cosa? Sì. È lo stesso di altri. Sì, è successo come per i soggetti di tutti gli altri romanzi. Non è stato diverso rispetto alle altre volte. Senta, ma quanto tempo è servito comunque da quando ha trovato e ripreso in mano il progetto per portarlo a compimento? Quanto tempo? Due anni. 2 anni di scrittura? Yeah. Sì. Ecco, Memorie di Adriano è un libro che è scritto come se lei fosse l'imperatore Adriano, un uomo, un romano, potente. In prima persona. Naturalmente. Un romano, un potente, uno che aveva sognato dei sogni impossibili. Ecco, perché la storia di un uomo? Se era una cosa, perché un uomo, un imperatore? Perché è un uomo. Perché non c'è mai stata un'imperatrice con un progetto del mondo come lo aveva Adriano. Madame Jurcenar, per identificarsi con un personaggio in un certo momento storico, lei come fa? Soltanto leggendo libri? Io non mi identifico. No, ma per poter scrivere, insomma, per poter capire. Ecco, lei legge solo dei libri? Si fa un grande sforzo per capire. Ma attraverso cosa? Attraverso una ricerca? Attraverso l'intelligenza e la sensibilità. E bisogna leggere molto anche? I libri che per approfondire servono moltissimo oppure va a intuizione? Qualche volta ho bisogno di studiare, molte volte uso l'intuito. Ecco, ma quando è che si sente sicura di poter padroneggiare un mondo che non ha mai visto? C'è una spia, una sensazione che le fa capire che lei è arrivata al cuore del problema? È impossibile dirlo. Come sarebbe impossibile nel caso un signore o una signora entrassero ora in questa stanza che io sapessi dirle subito: oh, è una bella persona, mi farebbe piacere che rimanesse qui in mia compagnia. Oppure: oh, ma questa persona non mi piace, speriamo che se ne vada subito. Senta, ma è vero che qualche brano delle memorie di Adriano lei li ha tradotti in greco antico per vedere che impressione faceva? Sì, esatto. E perché? Per vedere se era credibile in greco questa forma di sensibilità. Un bisogno di perfezione, quindi? No, di verità. Lasciamo perdere la perfezione. Di verità. Senta, lei ha ambientato, l'ha detto anche prima, romanzi e racconti in epoche classiche, durante il Rinascimento, in Europa, in Oriente. Non ha mai fatto però nulla di medioevale. Perché niente medioevo? Non la interessa? Perché no, non era nel... Non c'è nessun personaggio del Medioevo che la interessa? O qualche problema sociale, qualche situazione? Non saprei chi potrebbe essere questo personaggio. C'è qualche scrittore che ci ha provato e non ne ha cavato granché. Uno che è riuscito molto bene in questa operazione medievale e ha fatto un enorme successo di pubblico in tutto il mondo si chiama Umberto Eco. E ha scritto il romanzo Il nome della rosa. Lei non mi parla. Non me ne parli, non mi piace, non mi piace. Non mi piace. Perché non le piace? Perché è superficiale. Perché è superficiale. Cioè è un libro che ha letto e non ha amato. No. Assolutamente. Sì. Senta, comunque, madame, perché il presente non c'è mai nei suoi libri? Ma il presente c'è sempre. Cioè La vita di Zenone, ad esempio, potrebbe essere simile a quella di un uomo di scienza di oggi. Per la vita di Adriano, no e anche sì. Sì, perché possiamo immaginare un uomo di oggi che possieda un immenso potere. Lo vedrei nel mondo della finanza. Ma chi è un Adriano di oggi, allora? Nel mondo della finanza, secondo lei, chi è? Non so, Rockefeller? Non conosco nessuno così intelligente. Ma è come riferimento di persone, grandi finanzieri solo? Sì, grandi finanzieri? Sì, grandi finanzieri o grandi persone con un grande spirito scientifico, come Einstein, che però con la ricerca avesse anche raggiunto esiti pratici. Però sarebbe praticamente impossibile perché non ne avrebbe avuto il tempo. Ma lei crede che i finanzieri di oggi abbiano una visione così strategica del mondo come quella di Adriano? Avrebbe fatto parte del mondo della scienza o della finanza. Madame Jürsenar, lei ha detto che siamo più figli del tempo che dei nostri genitori. Lei di che tempo si sente figlia? Tutti e niente. Tutte e nessuna. Non si sente radicata nel suo tempo? Non credo al tempo. In che senso? Che è il tempo? Cos'è il tempo? Risponda lei. No, io. Fa la definizione del tempo. Sono qui a fare le domande a lei perché voglio imparare qualcosa. Tempo? Il tempo? A Parigi sono le 5:20, a New York sono le 11 e sono le 5 del mattino a Tokyo. Questo è il tempo. E le epoche della storia non determinano le persone, secondo lei? No. Senta, ecco, lei ha anche detto, per almeno 3/4... il passato e il presente sono assolutamente lo stesso. La vita, la morte, il ricordo sono gli stessi. Cambia solo un quarto, cioè la tecnica. Ecco, questo, quello che non le piace di oggi, che cos'è? La tecnica di oggi, le piace o no? No, non per la tecnica in sé, ma per l'uso orribile che ne facciamo. E cioè in che senso? In che senso? Le innumerevoli cose inutili che l'uomo usa nella sua vita. Quando si potrebbe fare qualcos'altro di meglio. E l'immenso sforzo che viene fatto in direzione della guerra. Dell'epoca in cui viviamo, questa è la cosa che le piace di meno? Sì. Ecco. E una cosa che le piace molto invece c'è oggi? Qualcosa che le piace molto della nostra epoca? Tutti gli sforzi che facciamo per migliorare il mondo. Greenpeace. Madame Jürsenar, questo suo modo di vivere il romanzo nel passato le ha dato molto successo. Ecco, lei non ha mai avuto però il rischio, non ha sentito il rischio di essere più letterata che romanziera? Per me non fa differenza. Il romanziere è una persona che racconta una storia. Se la storia è corta, è una novella, come Borges. Se lunga, sarà Flaubert o Tolstoi. Ma non vedo differenza con un altro tipo di scrittore. Senta, ma si sa che uno scrittore si nasconde dietro tutti i suoi personaggi. Ecco, lei dietro a quale dei suoi personaggi si sente più nascosta? Ce n'è qualcuno che ama di più fra i suoi personaggi? Sì, e lei li conosce. E qua me li dica per il pubblico. Indovini? No, vorrei sentirlo dire da lei. L'autore. L'autore ama tutti i suoi personaggi. Ma quelli a cui mi sento più vicina sono Natanael e Zenone. E perché sono quelli che ama di più? Gente. Perché sono persone che cercano di vedere il mondo com'è. Mix 24. Leggendo la sua biografia, si ha l'impressione di leggere la biografia di una nomade. Come mai ha viaggiato tanto nella vita? Che cosa rappresenta il viaggio? Perché mi piace viaggiare. Ecco, ma di un viaggio, le piace di più la partenza o il ritorno? È lo stesso. Si parte, poi c'è un momento in cui si deve ritornare e poi bisogna partire di nuovo per andare da qualche altra parte. Non è importante. Del mondo che ha visto, qual è il posto più bello? Quello al quale è più legata in qualche modo? Mi è difficile da dire. Perché ci sono dei paesi molto belli al nord, come l'Islanda o qualche zona del nord della Svezia, ma per me al momento il paese più bello è l'India. E perché l'India è più bello? Per l'immensità. Ecco, ma lei crede che i problemi dell'India di oggi siano più legati alla situazione religiosa di quel paese o alla cattiva amministrazione? È difficile dire. È difficile da dire, non si può fare una statistica. Certamente l'amministrazione non è perfetta, ma potremmo chiederci dov'è perfetta? Mentre la questione religiosa si confonde spesso con una questione razziale. Ma che cosa è che ama di più dell'India lei? La vita. La vita che si vede nelle strade e nelle città, la varietà dei tipi umani, il fatto che sono ancora immersi in una realtà cruda, brutta, non troppo cambiata dalle apparenze della vita moderna. Madame Yourcenar, in un libro intervista lei ha detto che a proposito delle idee i francesi si comportano come chi deve sempre essere alla moda, le cambiano senza problemi. Sì. Ecco, perché secondo lei? Non so perché. Non so perché, ma tutti l'hanno detto, non solo io, ma anche Stendhal, Tolstoi, tutti. È tipico dei costumi della Francia. Lei, a differenza di molti scrittori francesi, non è mai stata engagée nel senso tecnico del termine. Ecco, non lo ha fatto per non seguire la moda o perché pensa che uno scrittore deve impegnarsi in un altro modo? Non credo che essere uno scrittore impegnato sia una cosa positiva. Perché in realtà è come dire il mio paese è giusto o sbagliato, o come dire Stalin è giusto o sbagliato, oppure il Papa è giusto o sbagliato. Non mi piace questo modo di pensare. Ecco, lei parla sempre della solitudine dello scrittore. Ecco, in che cosa la solitudine di uno scrittore è diversa o più grande rispetto a quella di un uomo? Non mi sembra tanto differente dalla solitudine di un giudice che ha i suoi documenti sul tavolo e che pensa come risolvere un caso. Quindi la solitudine di uno scrittore non è particolare. È parte della solitudine umana. Madame Yourcenar, secondo lei, qual è lo scrittore francese che ama di più in assoluto? Montaigne. E il romanziere in senso assoluto che le piace più, non francese, proprio nel mondo? Forse Tolstoi. Forse perché è incerta fra Tolstoi e chi? Forse il Genji Monogatari, un libro giapponese. Cos'è che le piace di più? A me? Dipende. Ci sono giorni che mi piace leggere Tolstoi o giorni che mi piace leggere Conrad, o chissà. Lei ha tradotto scrittori importanti, come il greco Cavafis e la scrittrice inglese Virginia Woolf. Ma non sono comparabili. Ho tradotto Virginia Woolf, ma non era un'esperienza personale. Un editore mi ha chiesto di tradurre e io ero una giovane scrittrice interessata a fare un'esperienza di traduzione. Ma non ero particolarmente legata all'opera di Virginia Woolf. Ma lei l'ha conosciuta, Virginia Woolf? Sì, sono stata a Londra per incontrarla. E che impressione le ha fatto come donna? Era interessante come donna. E bella come un fantasma. Perché fantasma? Ma era uno spettro. Si capiva che voleva lasciare la vita. Non partecipava alla vita. Quando si è suicidata, lei è rimasta sorpresa da questo fatto o no? C'era la guerra ed era una buona ragione per suicidarsi. E poi ricordiamoci che era stata considerata pazza già 2 o 3 volte e ricoverata in una clinica. Madame Yourcenar, lei da molti anni è attratta e studia, si occupa del mondo orientale, la religione, la letteratura, eccetera. Ecco, che cosa ha l'Oriente che l'Occidente non ha in questo momento? L'Oriente è immenso. Io conosco un olandese che dice che per lui l'Oriente comincia a Bruxelles. E dal suo punto di vista è vero. E poi c'è il vecchio proverbio diplomatico secondo il quale l'Africa comincia a Roma e l'Asia comincia a Vienna. E per lei l'Oriente dove comincia? Non si può dire. No, ma per lei, l'Oriente che la interessa, dove comincia? Se lei parla di paesaggi, allora si può dire che c'è qualche tocco di Oriente in Spagna. Ma se lei parla delle idee, non dimentichi che l'Oriente non è un blocco unico, ma è infinitamente complesso. E quindi parlare di Oriente e di Occidente non ha senso? No. Anche l'Oriente. No, anche perché l'Occidente è un piccolo promontorio dell'Asia. Senta, e l'amore, madame, che parte ha avuto nella sua vita? È stato importante, l'amore. L'amore è evidentemente la cosa più importante del mondo, insieme alla morte. E anche nella sua vita è stato importantissimo l'amore. Sicuramente. E l'amore non è una nozione semplice. E lei come lo definirebbe l'amore? Non si può. Lei però ha detto che bisogna ridare, l'ha detto lei, bisogna ridare al piacere il senso di essere una via di accesso a Dio. Sì. Ecco, cosa voleva dire esattamente? Credo che l'Occidente abbia molto svilito l'idea del piacere, come si può vedere in molti film, in molte parole nelle canzoni, in molti luoghi di piacere. E questo perché la tradizione cristiana era ostile al piacere e l'ha molto svilito. Ed è difficile ora ridare al piacere una connotazione positiva e onorabile. Madame Yourcenar, lei di Dio ha detto: Dio è in contraddizione con la scelta di chi vuole o riesce ad amare la vita. Non si possono avere insieme la bellezza della notte infinita e lo splendore del sole. Dio è una sola di queste due cose, o la notte infinita o il sole splendente. Ma questa formula. Questa frase l'ho presa da un poema d'amore. E credo che non si possa spiegare senza tutto il suo contesto. Dipende. La persona che dice queste parole sta parlando di dolore, di infelicità o di felicità? Non si può avere le due cose allo stesso tempo. Ma lei si considera una persona religiosa? In un certo senso, certamente. In che senso? Non sono cristiana. Non sono cristiana. Non credo al Dio cristiano. Ma qual è la religione che sente più vicina? Il buddismo. Ma per lei il successo che cosa è stato? Capire un po' di più di quanto capivo ieri. Ma che cosa determina il successo di un libro? Un po' più di perfezione. Un po' più di perfezione nella vita o nel pensiero. Ma secondo lei ci sono dei grandi capolavori nascosti oggi in letteratura? Sicuramente. Come le statue antiche sepolte sottoterra. Si possono trovare oppure possono rimanere sepolte. Ecco, prima di finire, la pregherei di fare un piccolo gioco con me. Lei ha detto prima che le 4 regole fondamentali del buddismo l'hanno accompagnata tutta la vita. Ecco, le leggo la prima regola. Per quanto difficile sia la perfezione, cercherò di raggiungerla. Lei l'ha raggiunta la perfezione? No. E che cosa fa? Per seguire questa regola bisogna provare, ma si sforza continuamente, bisogna provare sempre. Ecco, la seconda regola dice: per quanto numerose siano le cattive passioni, cercherò di trionfare su di esse. C'è riuscita? Sì, di sicuro. Ma qual è una cattiva passione sulla quale ha vinto? Quando sento qualcuno che parla male delle persone che non sono presenti, io sento la presenza del male. E quando sento qualcuno dire: oh, come sono arrabbiato oggi. Ecco, questa persona ha perduto il suo controllo ed è spiegabile. La terza è: per quanto faticoso sia lo studio,

accoglie oggi i rappresentanti diplomatici convenuti per la firma dei trattati che istituiscono il mercato comune europeo e l'Euratom. E il secondo trattato che fu firmato a Roma era quello relativo all'energia nucleare di tipo civile. In quel momento, cioè nel 1957, si riteneva che l'energia nucleare sarebbe stata l'energia del futuro. Così non è stato, quindi il trattato che ha avuto una influenza sulla storia dell'Europa e direi anche in generale sulla storia del mondo è stato il trattato del mercato comune, da cui è nato tutto il processo che ci ha portato poi all'Unione Europea di oggi. Siamo al cuore della cerimonia, si procederà infatti adesso alla sigla dei trattati che istituiscono la comunità, il mercato europeo e la comunità autonoma. Firma adesso il ministro belga Spaak, firma adesso il ministro degli affari esteri francese, signor Pinault, e la volta adesso del cancelliere tedesco Adenauer. Firma del ministro degli esteri italiano Gaetano Martino. Professore Romano Prodi, buongiorno. Abbiamo ripercorso le tappe principali che portarono alla storica firma del Trattato di Roma nel 1957. Vorrei sapere a che punto siamo con l'Europa oggi. Prima però le faccio ascoltare l'analisi del professor Giuseppe Guarino, un attimo. Lei dice che con la creazione dell'euro c'è stato un colpo di Stato. In parole semplici, mi dice perché? Molto facile, sì. Individuarlo, perché la disciplina elaborata da Pearl, da Delors e da Carli, sì, ed approvata da tutti gli stati con le procedure di approvazione dei trattati, era fondata su due poteri, perché tu non puoi dire la crescita, devi conferire i poteri per realizzare la crescita. Naturale. E questi poteri erano esattamente individuati, ciascuno Stato poteva elaborare, doveva elaborare la propria politica economica in funzione della crescita, nell'elaborare la politica economica in funzione della crescita avrebbe potuto indebitarsi. E allora, invece, professore, questi due poteri sono stati eliminati. Sono stati esautorati. È una cosa importante, che sono stati sostituiti da due doveri. Certo. Il primo dovere è di realizzare il pareggio di bilancio a medio tempo. Il secondo dovere di realizzare il pareggio di bilancio a medio tempo seguendo un programma prestabilito dalla Commissione. Ecco, professore, il professor Guarino è eccessivo o no? Non riesco appena a capire cosa dice. Voglio dire, c'è stata una decisione dei governi di passare la sovranità parziale a una struttura superiore internazionale, è una decisione democratica perché i governi rappresentano legittimamente i paesi, hanno sottoscritto, firmato, e non capisco proprio quale sia il problema. Lui dice c'è stato un vero e proprio colpo di Stato dei burocrati. Ma che burocrati? Hanno deciso i governi, mica i burocrati, hanno deciso i rappresentanti dei popoli, mica i burocrati. Poi possono aver sbagliato, fatto giusto, ma sulla legittimità nessuno ha mai messo in dubbio niente. Queste sono ormai è arrivato questa specie di strano processo alla storia, no? Che non ha mica basi giuridiche. No, lui parla di fiscal compact, dice che quello non è giuridicamente valido. Perché non è giuridicamente valido? Cioè, voglio dire, io sono stato contrario, sono contrario a mettere in Costituzione il pareggio di bilancio perché non ha senso dal punto di vista economico, ma non capisco perché se la volontà del Parlamento lo decide non si debba mettere il pareggio in bilancio e non si debbano fare accordi internazionali di questo tipo. Discutiamo sull'opportunità, discutiamo sul fatto che queste misure dovevano essere accompagnate da misure di solidarietà politica che sono state messe sulla carta ma poi non messe in pratica. Su questo va benissimo, ma sulla legittimità proprio questione di buon senso, insomma. E allora come bisogna ripensare l'Europa oggi? Il problema è molto semplice, volete andare avanti o volete andare indietro? Così ci sono degli squilibri. I padri fondatori dell'euro, e me lo ricordo benissimo perché ho assistito a infiniti di questi dibattiti, avevano fatto queste cose, avevano preso queste decisioni come prima tappa per un progresso in avanti, sapendo benissimo che avrebbero dovuto coordinare alcuni fondamenti della politica economica. Poi sono intervenuti dei leaders che hanno messo il freno a questo progresso, l'Europa è entrata negli anni della paura e invece andare avanti e si è fermata. A questo punto è chiaro che è arrivata la crisi, questa sosta, questa mancanza di mettere in moto tutte le forze europee ha prodotto danni molto molto gravi. Oggi bisogna andare avanti, se no la storia ci uccide. Tutto qua, non possiamo mica pensare che nella globalizzazione del mondo che è diventato così grande i singoli paesi possono resistere. Se lo vogliamo fare, se possiamo benissimo pensare di tornare indietro, con il che è finita, con il che l'Europa, i paesi europei non avranno più niente da dire per secoli e secoli. E allora cosa bisogna fare per ripensarla? Cioè, qual è la ricetta? La ricetta è stabilire quei legami di solidarietà nel sistema bancario e nel sistema fiscale che erano previsti da coloro che hanno concluso i primi patti per un accordo monetario. Il problema è: vogliamo l'Europa o no? E Renzi cosa deve fare per farcela in Europa? L'Italia sta facendo il proprio dovere, anche secondo regole che sono estremamente dure e che io in tempi non sospetti definii stupide, proprio perché ne mancava il contorno politico, e noi abbiamo bisogno di avere questo contorno politico. Cosa penso io? Penso che l'Italia da sola difficilmente potrà essere ascoltata, ma in questo momento oserei dire fortunatamente, anche se la parola, l'avverbio non va bene, abbiamo altri paesi che condividono i nostri problemi, cioè la Spagna e anche la Francia stessa, e quindi bisogna avere una politica economica alternativa volta allo sviluppo. Renzi sta facendo questo nella giusta direzione, abbiamo però bisogno di alleati, perché se no, se picchiamo i pugni sul tavolo da soli ci rompiamo le dita e non otteniamo nulla. Tutte le puntate della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio, Rachele Bonanni, il mitico Manuel Guerrini in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.